era dentro te soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà. Ora crescerà la tua passione, tra mille sfide ti guiderà, credi in te. In ogni attimo tu potrai scegliere e non dimenticare che dipende da te. Lungo la tua vita se resti puro nell'anima, e anche quando avrai qualche incertezza, sarà il coraggio a decidere, credi in te. Non arrenderti mai.